America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, si sta per aprire qui a New York una giornata piuttosto interessante dal punto di vista dei mercati, perché si cercherà di riflettere su quel che è successo venerdì con un tasso di disoccupazione che è stato pessimo, un tasso di disoccupazione che ha mostrato un aumento degli occupati di soltanto 18.000 unità. Siamo nel mezzo della jobless recovery e questo ha preoccupato ieri i politici americani, che si sono riuniti di nuovo alla Casa Bianca per cercare di risolvere il problema del disavanzo pubblico, per cercare di trovare la via per un accordo. Io sono sicuro che la via per l'accordo si troverà. Sappiamo che ieri sono stati fatti dei passi in avanti importanti sull'organizzazione di un accordo quadro. Secondo me nel giro di qualche giorno potrebbe esserci davvero una svolta. Però il fatto che si vada avanti con forti tagli della spesa pubblica, beh, insomma, questo non necessariamente rassicura. Se il paese è debole dal punto di vista economico, certo non è il momento migliore per ridurre spese, ma l'idea è quella di posticipare tutto al 2013, un po' come abbiamo fatto noi, e di avere un periodo intermedio in cui si spera che l'economia possa riprendersi. Dunque, visto che i mercati sono chiusi, siamo ancora in una situazione di incertezza, oggi vorrei tornare a parlare del fenomeno Strauss-Kahn e di nuovo vorrei tornarne a parlare dal punto di vista del contesto transatlantico. Insomma, ci sono state una gran quantità di teorie del complotto, ci sono stati interventi di ogni genere, si è detto che l'America ha attaccato Strauss-Kahn perché in realtà odia la Francia, insomma se ne sono dette di tutti i colori. E dunque, per cercare di approfondire questo dibattito, che secondo me è molto interessante perché riguarda culture, approcci culturali diversi sul fronte transatlantico, ho con me ai microfoni di America 24 Pierre de Gasquet, che è il corrispondente di Les Echos dagli Stati Uniti, quindi è un giornalista francese che vive a New York da alcuni anni ma che ha anche vissuto in Italia e dunque dovrebbe esserci in grado di darci una prospettiva, direi, il più distaccata possibile. Buongiorno Pierre. Buongiorno. Ecco, ciao. Allora vediamo un pochettino di esaminare le cose punto per punto, viste dal punto di vista di un francese che vive in America, che è francese, che conosce l'Europa e conosce l'Italia. C'è stata congiura innanzitutto? Mi sembra che questa teoria della congiura sia un po' in retro oggi, perché in realtà ce ne sono troppo. È vero che all'inizio la stampa francese ha un po' accennato a questa possibilità, ma oggi non mi sembra la cosa la più convincente. Ci sono state anche teorie del complotto che dicono che è stata Washington che ha creato questa situazione. Non ci credo per niente, perché se vivi in questo paese sa che non regge, anche se è vero che DSKY era un direttore del IMF molto indipendente, non vede assolutamente un setup attribuito agli americani, ma è vero che ci sono delle stranezze in questo affare, anche delle contraddizioni, che il comportamento forse del procuratore è stato un po' precipitoso e il fatto che il servizio del NYPD abbia dato tanti dettagli all'inizio anche alle autorità francesi, tra l'altro, è un po' un usuale. Faccio proprio questa domanda perché tu l'hai detto, hai detto chi vive qui sa che in questo paese certe cose non succedono nel modo romanzesco in cui vengono descritte. Ecco, parlando di quello, come mai secondo te, visto che tu stai qui, c'è questa differenza di percezione in Europa, perché poi è un problema europeo, rispetto a quella che c'è da parte di persone come te o come me che vivono qui e che vedono le cose in modo un po' più distaccato? Come si fa a colmare questo gap? Beh, gli Stati Uniti sono il paese di Hollywood, della fizione per eccellenza, quindi tutte le teorie possono essere esplorate qui, ma per chi conosce il funzionamento della giustizia americana e della sfera pubblica, c'è un livello di esigenza abbastanza alto che rende tutto questo abbastanza improbabile. E dunque, secondo te, come finirà il 18 di luglio o prima? Ci sarà uno scagionamento totale? Beh, questo è una possibilità seria, perché nel sistema della giustizia americana, se c'è questo ragionevole dubbio di cui abbiamo tanto parlato, cioè esiste veramente in quel caso della cameriera, visto tutte le sue bugie, probabilmente il procuratore dovrebbe fare un passo indietro, più di un passo indietro, anche probabilmente non andare al processo. Però rimarrà forse un dubbio per un certo tempo, perché ovviamente fin a quando DSK stesso non si esprime pubblicamente e non dà la sua versione, possiamo sempre aspettare alcune novità, mi sembra. E secondo te la sua vita comunque politica, anche personale in fondo, il danno è stato violento, insomma ha subito una violenza quest'uomo, e allora la domanda è: se la sua vita è stata distrutta, potrà ottenere un risarcimento? Cioè, come si risarcisce una persona che ha subito questo danno personale? A questo momento non possiamo dire che la vita sia totalmente distrutta, neanche distrutta. Il suo futuro politico, secondo me, probabilmente non c'è più, oppure un futuro, ma non di presidente ovviamente, tranne un complotto completamente provato, ma è un'infima possibilità. Invece la storia francese dimostra che ci sono delle possibilità di riscatto, di renaissance, sì. In un certo modo, perché i francesi non sono così severi con un comportamento, diciamo, esuberante dal punto di vista sessuale, e questo non è ancora provato, ma è probabile, e quindi non sono sicuro che sia distrutto dal punto di vista personale. È un uomo abbastanza resistente, dipende ancora degli sviluppi a breve termine, direi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. L'11 luglio del 37 moriva da appena 38 anni, pensate, appena 38 anni, George Gershwin, uno dei più grandi compositori americani, e vorrei aggiungere di tutti i tempi. E visto che siamo d'estate e che vorrei celebrare questo anniversario, vi propongo un classico di Gershwin, Summertime. Thank you.